Radina billahi ta'ala rabba. Siamo soddisfatti di Allah l'Altissimo come Signore. Wa bil islami dina. E dell'Islam come sistema di vita. Wa li Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyan wa rasulan. E di Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, come profeta e apostolo. Wa bil Qur'ani imama, del sublime Corano come guida. Wa bil Ka'bati qiblatan wa bis salawati farida, della nobile Kaaba come direzione e del rito di adorazione, dei riti di adorazione come obbligazioni inderogabili. Wa bil mu'minina ikhwana, e dei credenti come fratelli. Wa bis siddiqi wa bil faruqi wa bis nurain wa bil murtada a'imma, e di Siddiq, Abu Bakr, Al-Faruq, Omar, Zunnurain, Osman, e di Al-Murtada, Ali, come guide della comunità. Ridwanu alaihi ta'ala alaihim ajma'in. Il compiacimento di Allah l'Altissimo su loro.